Vodka, Campari, Don Pero, sulle mani, vai. Vodka, Campari, Don Pero, sulle mani, vai. Vodka, Campari, Don Pero, sulle mani, vai. Pronte, de pronte, de pronte, de pronte, de pronti per lo zoo. Oh! Un delirio in diretta, parte il maestro, lo zoo ti capotta. Dignità sotto ipoteca, aiuto c'è Dona che insulta la cieca. Lascia Dalan la cornetta, c'è Santina che lo aspetta. È sempre tra risse e botte, o tra alcol e mignotte. E mentre Spagna in testa c'ha solo la fregna, Palmieri ti fa la regia dalla Sardegna. Rintraccia Ivo, avido quel lavativo. Per sto terrone andare a Chieti è tassativo. Luca Alba è un cazzaro, Wender in fissa col Mannaro. E mentre Noise svappa di brutto, Alisei si scola di tutto. Voglio far come Mazzoli, andar fuori dai coglioni, in diretta da Miami. Italiani sulle mani, vodka, Campari, Don Pero, sulle mani, vai. Vodka, Campari, Don Pero, sulle mani, vai. Vodka, Campari, Don Pero, sulle mani, vai. Pronte, pronte, pronte, pronte, pronte, pronti per lo zoo. Oh!